quella. Spero che non abbiano cambiato a questo, c'è un'ala F24 con Marco che sto vendendo insieme a quell'MBP4 che hai sentito prima, 30 euro. E ho notato che l'ala F24 c'ha nel microfono palmare che c'ha il Roger Beep e l'Echo. E ho notato che gli hanno messo la capsula, non lo so se è originale, verde. No, quella lì non è originale, allora te lo so dice lui. Gliel'ho cambiata. Vabbè, sì, arrivi, saluto, dai, devo fare un po' di roba qua. Sentiamo più tardi se ci siete, forse esco. Ehi, parlo più tardi allora, Marco. Infatti qua lo cambio di capsula. Luca. Sì, mi ho acceso il soldato adesso. No, sì, Marco, però mi raccomando, non andare oltre Platamona, se no non mi senti più dopo, sì. Sì, tra me il più forte era, comunque, sono andato fino al settimo ottavo pettine, e dunque era sempre niente d'altro. Anche con l'Ani International, e un latte e mezzo arrivava sempre. Meglio così. Doveva passare quello la comprassi lei questa antenna, adesso lo sai cosa faccio, la prima versione che ho fatto, quando ce la metto sul tetto e me la uso per ascoltarmi con l'International, anche se mi sto ascoltando col cavo adesso, è collegato al baracchino e va sul tetto, mi sto ascoltando così, però siccome ce l'ho nel terrazzo in mezzo alle palle, ce l'ho butto sul tetto, adesso vedo un po', quando un attimo di tempo, che poi cazzo, bisogna fare la mattina presto perché poi c'è il vento qua, è un casino, si solleva il vento. E così, capito Antonello, la uso per ascoltarmi. E come fare così? Comunque c'è il vento adesso, un pochettino ce l'ha ancora. Ehi, ma infatti adesso non faccio niente. Mi ho preparato le funi, i tiranti, e ce la rimetto su, praticamente ne ho due, solo che vabbè, li ho fatti con cose diverse, e così sono due, e non ce l'ho più in mezzo alle scatole, questa, che adesso è dritta in terrazzo, tutta legata, perché non si può smontare, perché l'avevo affogata nel poliuretano, così che la devo tenere intera. Ah, cavolo. Dico, deve fare così, però intanto se non la tenere più serve sempre, come fare proprio con un baracchino, ecco là, almeno ti ascolti, capito? Quindi usi una trasmissione, quello che stai usando adesso usi trasmissione, e l'altro il multimodale usi ricezione. Così sei più tranquillo, ti metti le cuffiette e ti ascolti come esci. E infatti, ma sai perché è comoda anche Antonio? Perché la puoi usare per dire, metto in ricezione il Concorde, no? Per dire sul 5, sul 45, e con questo mi ascolto da altre parti. Anche quello puoi fare. Una cosa buona, le cose, a meno che non ti metti un bifolo, dopo devi avere gli ordini, che fai? E se c'hai quel rotore, ti agganci quel rotore con due canne alla pesca, te le metti in orizzontale e la fai girare da sotto. No, non ne voglio buoni rotore, Antone. Segnale di ricezione, tutta la bascia di moto, anche quello è vero. Io c'ho il moto, qua c'ho il moto della parabola che è stato qua a casa, e le grosse pure, mi aiuta, è della telesystem, e c'ho che faccio sotto, quando voglio, c'ho la secca che faccio, che posso fare un dipolo, quindi c'ho due radiali di campo e sentieri, faccio tipo il giocare e la giro come voglio. Sì, perché è leggero anche il dipolo. Ma ti puoi fare anche un dipolo rigido, capito? Un dipolo rigido da 2,75 per braccio e per la 27, è una gatata a farlo, non è che devi avere appunto lo spazio per farlo girare. E appunto poi quello, adesso vediamo un po' quando faccio il bucchiata, per forse dove sono adesso, dove adesso l'antenna, mi metto l'antenna del baracchino sopra e sotto ci metto la motore con una pipetta, allora pure dove trovo la tappata, e va bene lo stesso, faccio una specie di 20, qua faccio 2,20, già va bene, a voglia, basta e avanza. Sì. Ma te l'ho detto, quando devi fare dei lavori fammi sapere, cazzo, non te l'ho sempre detto, quando devi mettere staffe o fare lavori di muratura fammi sapere che vengo a farteli senza problemi. Sì, cazzo, era in caso di soldi, devo intacciare con le staffe, facciamo i buchi e mettiamo come si chiama la staffa con la grossa con l'acido chimico al muro, così almeno l'antenna tiene, non le metto staffe grosse grosse a bocca del lato un po' da tiro un casino, non aggiungo su una gara, faccio così, faccio bene, faccio è tanto uguale, non cambia niente, una bella staffa di quelle grosse con l'acido chimico e la lavoro in più. Limite da 100 per paratino. Perché il paratino, maledetto, non ha una grande forza, capito? Bisogna che li buchi almeno due camere, li devi bucare. E appunto mettere il tassello chimico, il modello che c'ha la retina però. Perché se non vuoto il foratino, se no ti cade dentro il chimico e ne perdi parecchio. Per il foratino ci vuole la retina, mentre per il muro pieno no, non c'è bisogno. Infatti quella volta ci ho trovato un muro pieno, cazzo, in più un ferro, mi ha mangiato la multa, figurati, invece la tappata c'è solo farattino, quindi vuoi farci un bucchino tanto la tappata, metto la lettina, qualcosa, e ci infilo il tassello dritto, e basta avanti, già non ce ne andrà a passeggio. No, infatti. Allora, guardando questo F24, Antonio, c'ha un tremerino dentro, dovrebbe essere quello dell'Eco, vero? Sì, se quel tremer glielo cambi, lo metti a 220 ohm, l'Eco lento esce benissimo, di lusso esce. Allora, questo qua da, aspetta, è bianco circa un centimetro per un centimetro, c'è scritto 10K, c'è scritto. Io c'era 220K, è un treno di venta, quello F24. Basta che puoi fare anche la prova di quando vuoi. Non aspetta un attimo, quello è il tema dell'amplificazione. C'è una resistenza, se non mi ricordo male, da cambiare. La posizione del trimmer, mi pare che rimane nel fianco viene integrato. Se non mi ricordo male. Perché quel trimmer lì è l'amplificazione. Allora, ti spiego. Questo F24 c'ha due integrati, che dovrebbe essere uno credo per lei e l'altro per Roger Beak, boh, non lo so. Uno si chiama MN300843 e l'altro si chiama, è un bel sigla, c'ha HEACF. Allora, il primo c'ha 8 piedini, sono 4 da una parte e 4 dall'altra, mentre l'altro ne ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 da una parte e 7 dall'altra. Poi c'ha due condensatori elettrolitici piccoli, poi c'è il relè di commutazione della Siemens, poi c'ha una specie di, non so se è una resistenza, color nocciola verticale attaccata proprio al trimmer, a fianco al trimmer proprio, non so se è collegata in serie, boh. Quindi integrato quello che c'ha i pilini, tre da una parte e tre dall'altra, quello del, con l'MNN, MNN mi pare che, quello è l'elettro. MN3008463. Quindi lo vuoto anche da 1,100 qui integrato. Infatti dopo voglio provare a collegarli questo qua, a questo apparecchio, l'F24. Vediamo se va. Sì, dovrebbe dare per forza. Dovrebbe dare per forza, sì. Perché vi rientro subito, 2 minuti. Sì, io intanto sto disaldando la capsula in questo momento, poi il tempo di smontare l'altra dell'MB+4. Vediamo un po', porca miseria, là, questo qua è negativo. Oh, aia la bagassa, mi sono schizzato. Aspetta che mi faccio un segno qua, perché sono due fili grigi della capsula, capito? Questo li faccio, perché il negativo li faccio così. Ok, allora, adesso proviamo a montarlo nell'MB+4 a fare le prove. Della parecchia, poi spingi direttamente col microfono. facci il mic again. Aspetta, sulla C il mic again, vaffanculo questi slider. Ok, adesso sulla C il mic, aspetta che mi rimetto il tappo però, perché ho disaldato quel tavolo di dischetto. Aspetta, non faccio caso a questo casino. Ecco, gli ho rimesso il tappo, perché basso se non fischia il baracchino. Ricevitore digitale terrestre, te ne servono? Ne ho 7 di quelli. In colazione si vende. Hai evitato tavolo 1, figurati. Se ti servono, me lo dici. Abbiamo qualcosa, non lo so. A Giuseppe, gli autori di quell'articolo di del sistema, che c'era il cancello dietro, direttamente nella scarpa, e poi gli altri sono tutti con l'attacco, gli vuoi mettere la tessera media sul premio. Sì, d'accordo.